appassionatamente e totalmente prese l'una dall'altra. Si sono trovati, si sono amati e credo che si amino ancora oggi. Dopo il matrimonio, la carriera di Bill Clinton prende il volo. A soli 28 anni, nel 76, infatti, Clinton diventa procuratore generale dello stato dell'Arkansas. 4 anni più tardi è il più giovane governatore di uno stato della storia americana. A Hillary però la parte della moglie del governatore sta molto stretta. Hillary conserva orgogliosamente il suo nome da ragazza e intanto coltiva le sue ambizioni. Ce ne parla Max Brantley, direttore dell'Arkansas Time. Sia Bill che Hillary intendevano fare politica. Credo che anche Hillary volesse candidarsi. Poi però accantonò il progetto perché ritenne saggiamente che come uomo Bill avesse più chance di arrivare rapidamente in cima. Negli anni 70 le donne non avevano certo l'accesso al potere che hanno oggi. Invece di dedicarsi alla politica, Hillary fa domanda per entrare in uno dei più importanti studi legali del Sud, il Rose Law Firm di Little Rock, la capitale dell'Arkansas. Dopo poco è tra gli avvocati di maggior successo degli Stati Uniti. Ascoltiamo ancora Max Brantley. Quando Hillary arrivò a Little Rock e iniziò a lavorare come avvocato, non esisteva nessuna donna che fosse socio di uno studio legale. Lei fu una delle prime. Ritengo che i Clinton avessero deciso che la carriera di Bill avrebbe avuto la precedenza, ma che Hillary sarebbe stata la sua collaboratrice più stretta. Ovviamente Bill prendeva le sue decisioni politiche in modo autonomo, ma prima ascoltava sempre il parere di Hillary. Insomma, Hillary segue il marito, ma non rinuncia a una sua indipendenza e poi è sempre al fianco di Bill, secondo alcuni in maniera un po' invadente, non gradita all'elettorato conservatore dell'Arkansas. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Clinton perde le elezioni del secondo mandato come governatore dell'Arkansas. Ascoltiamolo nella conferenza stampa del 7 novembre dell'80. Stasera io e Hillary abbiamo versato qualche lacrima per questa sconfitta. Per aiutare Clinton a riconquistare la poltrona di governatore, Hillary Rodham si adegua a ciò che l'elettorato dell'Arkansas si aspetta da lei. Prende il cognome del marito, evita di ostentare un'eccessiva indipendenza. Nel 1982, anche grazie a Hillary, Bill viene eletto di nuovo governatore dell'Arkansas. In cambio, Hillary assume la presidenza della Commissione di Stato dell'Arkansas per l'istruzione. Ascoltiamola. In questo campo non ho competenze specifiche, ma solo le mie esperienze personali. Hillary lascia la carriera al marito, ma non rinuncia ad esercitare il suo influsso politico. Nella residenza del governatore dell'Arkansas, i Clinton collaudano uno schema grazie al quale Bill può realizzare i suoi sogni di gioventù. Nel luglio 1963 andai a Washington, dove il programma Boys Nation ci aveva organizzato un incontro con il presidente Kennedy. Kennedy arrivò, disse qualcosa e, dato che ci avevano disposto in ordine alfabetico, l'Arkansas era verso l'inizio della fila. Io ero il più alto e riuscii a stringere la mano al presidente. Ricordo che pensai, certo che l'America è proprio un paese incredibile, se uno come me, che vive in una cittadina dell'Arkansas, senza soldi né una posizione politica, può avere l'opportunità di incontrare il presidente. Bill tornò da Washington con la foto in cui stringeva la mano a John Kennedy in persona. Non avevo mai visto un'espressione come quella in tutta la mia vita. Era talmente orgoglioso che capii che in un modo o nell'altro la politica sarebbe diventata un suo obiettivo. Era la madre di Bill Clinton, Virginia Clinton Kelly. E quell'obiettivo avrebbe trasformato quel legame tra Bill e Hillary in un'unione indissolubile. I due infatti applicano alla politica uno schema vincente perché collaudatissimo anche tra le mura domestiche. Insieme Bill e Hillary riescono ad avvicinarsi alla gente, a trasmettere un modello di famiglia unita ma anche indipendente. Si dividono il lavoro, si consigliano, si danno coraggio, si mostrano in pubblico insieme e da soli. I Clinton scalano così in fretta i vertici della politica. Dopo essere stato il più giovane governatore della storia degli Stati Uniti, approda alla politica nazionale. Campagna presidenziale 1992. La gente al primo posto. È lo slogan elettorale dei Clinton, che puntano ad avvicinarsi agli elettori. gli altri slogan: uscire dalla trappola del debito e lavoro per tutti. Ancora una volta, Bill e Hillary lavorano facendo campagna elettorale simultaneamente in luoghi diversi in modo da raggiungere più elettori. E quando appaiono insieme, Hillary sostiene con forza il programma di Bill. La prossima settimana saremo qui a casa mia e spero che tutti voi ci aiutiate a raggiungere ogni singolo elettore dell'Illinois e del Michigan e gli portiate il messaggio di questa campagna elettorale che va al di là di Bill Clinton e della sua candidatura. Lui è il messaggero di quel cambiamento di cui abbiamo bisogno, il prossimo presidente degli Stati Uniti. Nel 1992, in campagna elettorale, Bill Clinton disse: paghi uno, prendi due. In sostanza, eleggetemi e avrete anche mia moglie, che è una donna capace e intelligente. D'improvviso, però, giocare in coppia si rivela in realtà un handicap. Gli avversari di Bill Clinton prendono di mira proprio lei, Hillary. Il suo punto di forza potrebbe trasformarsi nel suo tallone d'Achille. Sentiamo uno scambio tra Jerry Brown, rivale di Clinton nelle primarie del 92, e Bill Clinton stesso. Per prima cosa, Clinton dirotta denaro pubblico verso lo studio legale di sua moglie. Per prima cosa, si vergogni di tirare in ballo mia moglie. Non cerchi scuse, non cerchi di scappare. Lei favoriva sua moglie con i suoi affari. Potevo rimanere a casa a cucinare biscotti e bere tè. Invece ho deciso di intraprendere una mia carriera professionale e l'ho fatto fino a che mio marito non è entrato in politica. Ho sempre cercato di essere più attenta che potevo. Posso dire solo questo. Grazie. Nel corso della giornata, di quella dichiarazione rimase solo la frase: potevo rimanere a casa a cucinare biscotti e bere tè. Questa frase suonò quasi come un insulto alle donne americane che stavano a casa a fare le mamme e ad accudire i loro figli. Hillary reagisce alle critiche modificando ancora una volta la propria immagine, da aggressivo compagno di armi a perfetta first lady, con edificanti quadretti del candidato e di una sua moglie in versione famiglia, trasmessi in ogni salotto americano. E Clinton fanno di tutto per presentarsi come una coppia felice. Dopotutto, anche questo è show business. E c'è anche la figlia perfetta, Chelsea. Certe volte papà mi fa ridere, fa le boccacce, dei versi buffi. Quando ero piccola gli stringevo il naso e lui parlava in modo strano. Quando ho una partita di softball, a volte mi mette in imbarazzo perché si scatena, urla e gesticola. È anche successo che durante una partita sia corso da me per dirmi qualcosa. Voglio che l'America sappia che i miei genitori sono persone eccezionali. Mi hanno insegnato a pensare con la mia testa e a trattare gli altri come vorrei che gli altri trattassero me. E questa è la regola principale. Dovete sapere perché mi stanno così a cuore i nostri figli e il nostro futuro? È cominciato tutto con Hillary. Ti amo. La classica famiglia americana che si ama, si stima e lavora per un risultato comune, un quadretto perfetto, così perfetto da sembrare finto. E gli avversari di Bill Clinton non se la bevono e cominciano a scavare nel passato del candidato alla Casa Bianca. E alla fine le loro ricerche danno i primi risultati. La scoperta è sensazionale. Questa. Sì, sono stata l'amante di Bill Clinton per 12 anni. Dunque il candidato Bill Clinton, il marito perfetto, il padre amorevole, avrebbe avuto un amante per 12 anni. Prima della clamorosa ammissione di Jennifer Flowers, l'avete appena sentita, il consiglio dei consulenti di Clinton era stato perentorio: negare tutto, anche l'evidenza. Mentre Hillary sta facendo campagna elettorale per il marito d'Atlanta, Bill le telefona per avvertirla. Stanno per uscire notizie poco piacevoli. E ci sono le prove. Una telefonata registrata. Ascoltiamola. Che ingenuo che sei, Bill. È una scriteriata. Chi vuoi che ci creda a questa storia, anche se andrà in televisione? Bill Clinton viene messo alle corde. La sua ex amante racconta tutto ai giornalisti. Sì, sono stata l'amante di Bill Clinton per 12 anni. Negli ultimi 2 anni ho negato la nostra relazione alla stampa per proteggerla. La verità è che l'amavo.

Tre cose. La prima è che nonostante ci fossero state richieste di rinforzi dall'ambasciata locale, di nuovi soldati per proteggere l'ambasciata, il Dipartimento di Stato non li ha mai mandati e Hillary Clinton era responsabile del Dipartimento di Stato. Il secondo punto è che quando c'è stato l'attacco l'amministrazione ha cercato di buttare la colpa su certi video che erano stati rilasciati in America, che avevano creato delle turbulenze in Egitto, eccetera, eccetera, invece di ammettere subito che era un attacco pianificato contro l'ambasciato e i rappresentanti dell'ambasciata, perché in realtà c'era un consolato a Bengasi. Infine, al Congresso vogliono recuperare i documenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e ritengono che con queste email private non ci sia un accesso totale a quello che è successo. Quindi insomma la situazione è un po' problematica. Ed è un rischio serio? No, non credo che sia un rischio serio, perché alla fine Hillary Clinton è un grande combattente, ne uscirà bene, gestirà questa vicenda bene, ma saranno saranno le polemiche che ci terranno occupati durante questa campagna elettorale, con un'altra polemica che ancora non è uscita, cioè che riguarda i possibili affair del marito Bill Clinton, perché si dice che abbia avuto degli incontri in un'isola dei Caraibi, l'isola di Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein è questo personaggio, questo finanziere americano che era stato coinvolto nello scandalo con il principe Andrew d'Inghilterra, no? Ecco, Bill Clinton faceva parte di quel giro, per ora non è stato toccato, c'è qualcuno che dice che si aspetta il momento giusto per tirare fuori. Ma questi incontri perché sono problematici? Perché l'isola ai Caraibi di Jeffrey Epstein era considerata, era chiamata l'isola delle orgie, un po' un bunga bunga americano. Quindi di nuovo affari privati che potrebbero pesare cose di più. Che potrebbero essere imbarazzanti per Hillary, ma ripeto, io credo che su tutte queste cose loro sono pronti, giocheranno d'anticipo e sapranno come affrontare la situazione. Ma alla fine, Mario Platero, qual è l'avversario più temibile? È difficile dirlo, perché da una parte c'è Jeb Bush, che ha una macchina straordinariamente forte ed è un candidato centrista che dunque può mettere in difficoltà Hillary Clinton. Io credo che in effetti il candidato più temibile per lei sia proprio Jeb Bush. E dall'altra potrebbero emergere, se ci fosse una rincorsa incredibile da uno dei candidati giovani, ieri per esempio Marco Rubio ha annunciato la sua candidatura. Marco Rubio è figlio di immigrati cubani, un giovane residente in Florida che si presenta molto bene e potrebbe essere un Barack Obama repubblicano, non lo sappiamo. Ecco, allora se succedesse quello forse Hillary potrebbe trovarsi spiazzata, perché da una parte c'è un volto nuovo e un giovane, dall'altra c'è una persona anziana che fa parte, come dicevo, di una dinastia e di una vecchia storia degli Stati Uniti. Bene, quindi vedremo. Grazie Mario Platero.